Abbiamo sentito nel Vangelo di Marco, questo capitolo decimo, che due discepoli vanno da Gesù e gli dicono: Signore, noi vogliamo i posti di comando, Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. Noi vogliamo... E Gesù dice: ma non sapete quello che chiedete? Bisogna pagarli con la vita questi posti. Per questo sentiamo nella prima lettura la Sapienza capitolo 8, non dimenticatelo, Sapienza capitolo 8, perché sarà bene che si vada a riprenderlo in mano anche in futuro. Salomone, diventando re, dice: Signore, dammi la sapienza, se no come faccio io a guidare questo popolo? Allora io credo che ciascuno di noi dovrà fare questa preghiera che adesso io vi ripeterò, perché è una preghiera bellissima ed è un'invocazione. Ciascuno di noi dovrà alzare al Signore questa preghiera. Una donna scopre di essere incinta: Signore, ti prego, dammi la sapienza nel tirar su questa creatura che mi hai messo in grembo. Un prete va a reggere una parrocchia: Signore, dammi questa sapienza affinché io possa agire in nome tuo. Un insegnante entra in classe per cominciare un nuovo anno. Un chirurgo entra in sala operatoria per poter operare sul cervello, per esempio, o su organi delicatissimi. O Signore, dammi la sapienza e guida le mie mani. Amici, abbiamo bisogno di chiedere al Signore questo. Io vi rileggo questa preghiera come preghiera. Dice Salomone: sapendo che non avrei ottenuto la sapienza in nessun altro modo, se Dio non me l'avesse concessa, mi rivolsi al Signore e lo pregai, dicendo con tutto il mio cuore: Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola e con la tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto e governasse il mondo con santità e giustizia ed esercitasse il giudizio con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono uno schiavo e figlio della tua schiava, uomo debole, dalla vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie. Signore, ti preghiamo per il nostro presidente Mattarella, che almeno sembra che sia cristiano, e per Draghi, che non sappiamo che fede ha, perché loro possano anche loro pregarti con umiltà in questa maniera. Mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo nome, sul tuo santo monte, un altare nella città della tua dimora. Con te la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo, lei sa quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Per questo il Papa ogni volta ripete: e per favore ricordatevi di pregare per me. E chi chiede di pregare per lui è un saggio, ma noi cristiani ricordiamoci di pregare anche per coloro che credono di non aver bisogno dell'aiuto di Dio.